cartellone di Elisabetta Fiorito. Il nemico si è allontanato. Via libera. Potete uscire. Shh, piano. Stanno facendo riposare la loro bellezza. Charles, avvicinati anche tu. Venite, ho una sorpresa. Crostata appena sfornata. Ce n'è per tutti. Allora, amici miei, che mi dite? Niente di nuovo? Ah, anche per me è tutto vecchio. Cenerentola, sbrigati! Cenerentola, il tè! Cenerentola, la porta! Ma come fanno tre donne adulte ad essere così pigre e sfaccendate? Forse è quello che mi merito per avergli permesso di trattarmi come la loro sguattera. Buongiorno, buongiorno, e con questa Cenerentola noi salutiamo tutti i radioascoltatori di Cartellone, diamo il benvenuto al nuovo anno e diamo il benvenuto a questo spettacolo per tutti, Cenerentola, la famosa favola di Rodgers e Hammerstein, che in questi giorni è in scena a Bologna, all'Euro Auditorium, e per la regia di Massimo Piparo e interpretato da Roberta Lanfranchi. Buongiorno Massimo, buongiorno Roberta. Buongiorno, buon anno. Allora, Massimo Piparo, specializzato in musical oramai da tantissimo tempo, hai portato in scena Jesus Christ Superstar, hai portato in scena qualsiasi tipo di musical sempre in inglese, invece questa volta ci cimenti con un musical tradotto in italiano. Beh, del resto anche la fiaba di Perrault è sempre stata tradotta, perché da quando i piccini si affacciano al mondo delle fiabe la leggono nella loro lingua. Mi sarebbe tanto piaciuto farlo in lingua originale, però insomma ormai in Italia siamo abituati che se lo spettacolo non è inciso nella memoria degli italiani nella lingua originale conviene portarglielo nella loro lingua. Che cosa ha questa Cenerentola? Perché noi abbiamo sentito un brano di Cenerentola che parla con i topini in scena, ecco, insomma, è un po' difficile dal punto di vista registico mettere in scena una favola. Beh, sì, è sempre difficile perché la favola prevede degli ingredienti di magia e di attrazione per un pubblico dei più piccino, per cui il pubblico, quello più disincantato, è paradossalmente più esigente, perché il bambino, se non lo tieni inchiodato alla sedia, dopo 5 minuti ti molla, non ha mezzi termini. Quindi mettere in scena una favola, secondo me, per un regista è un impegno sicuramente doppio. Nel caso del musical ci viene incontro la musica, che è comunque il motore principale di uno spettacolo musicale, quindi la musica non ha età, non ha lingue, non ha confini, e grazie a Dio è il linguaggio universale che ancora resiste e sopravvive. In questo caso, ovviamente, venendo da una fiaba così importante e così conosciuta nel mondo, forse la difficoltà maggiore è stata quella del rapporto col cartoon della Disney, perché tutti pensano che Cenerentola sia quel cartone animato, invece meno male è una storia che viene da una tradizione molto molto più antica, quindi i bambini ritroveranno i loro amati topini e gli adulti si divertiranno con l'archetipo di fiaba più amato di tutti i tempi. Sentiamo da Massimo Romeo Piparo, come preciso sempre, e allora sentiamo un altro brano di questo spettacolo. Sì, che ti può trasformare una zucca in una carrozza d'oro, sì che mi può trasformare una favola in un amore vero, o quattro topolini in cavalli bianchi, dicendo qualche parola stravagante, sì che si può. Attenzione, si canta, si balla, si recita. Roberta Lanfranchi, un ruolo impegnativo. Impegnativo sì, ma è veramente una favola interpretare Cenerentola. Io sono contentissima e onorata di poter interpretare questo ruolo e ringrazio il regista Massimo Ghellini per avermi dato questa grande opportunità. Ho studiato tanto per riuscire a dare al pubblico una buona Lanfranchi, insomma. Ho studiato canto, ho studiato recitazione, dizione, spero di essere arrivata ad un buon livello. È bellissimo interpretare, c'è un cast favoloso, da Giulio Farnese alle sorellastre, al balletto del principe stesso, al principe, insomma, Antonio Cupo, è un gran bel gruppo. Ma è difficile perché, oppure si sogna un po', perché da piccole tutte quante noi volevamo essere Cenerentola. Beh, sì. sì, ma anche quelle grandi. Insomma, ho 35 anni e ancora sogno di essere Cenerentola e ho la fortuna ogni sera di indossare il vestito del ballo e la scarpetta di cristallo immancabile, quindi è bellissimo, è una favola nella favola. È una favola nella favola. Massimo Romeo Piparo, qual è la difficoltà di passare da Jesus Christ Superstar a Cenerentola? Ma guarda, c'è... Secondo me non esiste questa barriera tra i generi, il teatro musicale è uno, è chiaro, il linguaggio rock di Jesus Christ Superstar rispetto al melò puro di Cenerentola sembrano due mondi lontani, però gli ingredienti sono quelli del melodramma che sono sempre gli stessi. L'importante è mantenere ciò che si promette, ogni titolo di questi che stiamo nominando contiene una promessa al pubblico, bisogna mantenerla perché oggi più che mai il pubblico non perdona promesse non mantenute. Certo, se ti devo dire, la mia anima è più rock, più operistica, perché poi Jesus Christ Superstar era un'opera, mentre qui stiamo proprio nella cosiddetta opera comique, uno spettacolo musicale con canzoni e dialoghi. Però poi hai fatto Tommy, no? Ho fatto Tommy, ho fatto Evita, che è un'altra opera interamente musicale, ma ho fatto anche My Fair Lady, ho fatto High Society, Alta Società, quindi insomma comunque spettacoli anche nel leggeri, pieno stile della commedia anni 50. Ecco, ma ci sarà un momento invece in cui decidi di fare un'opera tua, di scrivere tu un'opera? Scrivere un'opera? Ho fatto già un libretto mio originale in uno spettacolo dedicato alla vita di Billie Holiday che si chiamava Lady Day, e quindi diciamo come autore di libretto ho già debuttato. Come spettacolo tutto mio a cui tengo, sto lavorando a un progetto sulla cavalleria rusticana in chiave moderna rock. E come mai, visto che sei siciliano? Sembra strano. Ma guarda, però... guarda un po' che strano. Anche lì però cavalleria rusticana, sai, un va anche al di là dei confini della Sicilia. Siamo sempre, ma noi siamo, che... noi su queste cose siamo regionalisti, ma diciamolo, certo, è certo. Bellissimo, ma perché? Allora, Roberta Lanfranchi, dopo Cenerentola, Biancaneve, no, è uno scherzo, è una battuta. Questo dipende da Piparo. Guarda, se domani mattina Piparo si svegliasse e mi dicesse: senti, che ne dici, facciamo Biancaneve? Io dico sì, perché ormai io la chiamo la macchina da guerra di Piparo, è simbolo di garanzia e di totale buona qualità del prodotto, quindi chi lo sa, chiedilo a lui. Ma io cercavo di intromettermi, mi sentite? sì, assolutamente. Ah, ecco, no, perché volevo, dicevo appunto, il prossimo impegno della Lanfranchi sarà un'altra cosa con me, non sappiamo. Ah, fantastico, quale. Lo stiamo dicendo. Meno male, anche perché sennò altrimenti qui, se Biancaneve, bisogna cimentarsi col primo film di Walt Disney, quello del 1937, quindi ancora più duro, Massimo. No, però vorrei mettere in mezzo tra Cenerentola e un'altra eventuale fiaba alla Lanfranchi, una cosa rock in mezzo, cioè dove la vediamo con i capelli a spazzo, la pittura di Verdi, che meraviglia, e gli artigli al posto delle unghie. Vabbè, allora abbiamo sentito che ci aspetta un altro cartellone abbastanza significativo con Massimo Romeo Piparo e con Roberta Lanfranchi. Ricordiamo che invece Cenerentola, uno spettacolo per bambini e per adulti, è in scena in questi giorni a Bologna all'Euro Auditorium, poi ci sarà il 6 a Gorizia al Teatro Verdi, il 7 a San Marino al Teatro Nuovo, a Reggio Emilia, poi a Lucca, Torino e Napoli. Insomma, una tournée molto serrata per uno spettacolo per tutti. Grazie. Se mi eludo di aver trovato in te la principessa che vorrei per me. Se cartellone. Questa guerra sarà una guerra rivoluzionaria. Darà col sangue alla ruota della storia il movimento. Sì. Non sarò mai contento io. Devo salire ancora più in alto. Sento di avere il dovere di essere diverso da tutti quelli che accettano la propria mediocrità. E quando sarà che la grande campana suonerà da martello, è certo che tutto il popolo italiano risponderà: Togliere! vincere ci accompagna oggi per questa puntata del 2 gennaio. Buongiorno, benvenuti di nuovo a Cartellone, per introdurre uno spettacolo che sta in scena e che parla sempre del Duce di Benito Mussolini, la figura forse più emblematica della nostra storia recente. L'Avvocato del Duce è uno spettacolo di Vincenzo Sinopoli e Alessandro Capone con Massimo Venturiello, Andrea Tidona e Irma Ciaramella. Buongiorno ad Andrea Tidona e Irma Ciaramella. Buongiorno. Buongiorno. Andrea Tidona interpreta il Duce. Ecco, che cosa vuol dire interpretare Benito Mussolini e di che cosa parla, di quale parte della vita del Duce parla questo spettacolo? Dunque, interpretare Mussolini vuol dire assumersi dei rischi enormi, perché indubbiamente è una figura straconosciuta e quindi, essendo, come tutti sanno, almeno magari i propri ragazzini non lo sanno, anche se sicuramente se uno gli mostra un'immagine sanno chi è, tutti sanno quanto fosse esuberante, a dir poco, quanto fosse proprio quasi macchietta in certe manifestazioni, quanto fosse duro, quanto fosse arrogante, e riproporre quindi una figura che già di per sé è così esagerata in teatro è rischiosissimo, insomma. E poi, altra cosa importante, si fanno i conti con la storia e con una pagina amara, terribile della nostra storia. Per quanto riguarda il testo, diciamo, lo spettacolo si svolge durante una notte, subito dopo il 25 luglio e quindi del 43, quindi subito dopo la caduta del fascismo. Il famoso Gran Consiglio del Fascismo, esatto, in cui i gerarchi votarono la fine di Mussolini, tra cui anche Galeazzo Ciano, suo nipote. Soprattutto suo genero, Galeazzo Ciano e Grandi, che erano suo genero, che erano praticamente in effetti le vere menti di quel Gran Consiglio, di quella seduta, perché erano andati lì determinati ed erano anche molto spaventati, perché insomma temevano la reazione di Mussolini, il quale già sapeva benissimo a cosa andava incontro quella notte, e temevano appunto di essere arrestati, invece Mussolini, che era in una condizione anche psicofisica in generale veramente a pezzi, insomma, mollò. E questo Avvocato del Duce narra un ipotetico incontro tra un avvocato, Francesco Carnelutti, che è Massimo Venturiello, esatto, e invece tu che interpreti Benito Mussolini. Esattamente, sì. E come dire, la preparazione di un eventuale processo, della difesa per un eventuale processo al Duce, insomma, che voglio dire, non c'è mai stato, ma che poteva esserci, perché comunque appunto poteva essere anche processato Mussolini se non fosse stato liberato dai tedeschi e se non fossero andate le cose come sappiamo, insomma, ecco. E direttamente giustiziato dai partigiani proprio a Dongo, per non aspettare, no? Perché c'era questo ordine di fine guerra. Con lui, in questo spettacolo, ma anche nella vita fino alla morte, c'era Claretta Petacci, che viene interpretata da Irma Ciaramella. Buongiorno Irma, che cosa vuol dire interpretare Claretta Petacci? Prima di tutto una donna bellissima, perché noi ci ricordiamo tutti le sue immagini, no? Le sue foto, molto giovane rispetto al Duce, e poi anche interpretata da grandi attrici come Claudia Cardinale, insomma una bella sfida. Sì, è una bella sfida, poi soprattutto perché è una donna che, non dimentichiamo, è morta insieme a lui, si è fatta fucilare con lui, è una donna che ha scelto il suo uomo fino alla fine, ha rinunciato ad un marito, ha rinunciato ad una vita borghese, a una vita da benestante, a una vita ricca, ad una vita agiata, per seguire comunque questo sogno. In realtà noi parliamo di un amore vero, di un amore che non va mai indietro, un amore che procede come procede questo personaggio, questa figura. Lo ama nella vita, lo ama fuori, lo ama in politica, lo ama per quello che è. Certo, sicuramente parliamo di un personaggio, di una donna che probabilmente avrà anche subito il fascino del potere, forse, ma forse no, cioè non dimentichiamo che è lei che è morta con lui, è lei che si è fatta giustiziare con lui, è lei che è stata con lui fino alla fine, quindi io parlo sicuramente di un grande amore e quindi forse è una donna di tutti i tempi, certo usa parole un po' particolari perché quel tipo di donna lì è una donna che in quegli anni è sempre un po' succube di questi uomini, però è una donna che ha saputo organizzargli anche nel caso del nostro spettacolo il processo, perché è lei che propone a lui di incontrare Carnelutti in questo spettacolo, è lei che lo spinge a non demordere, è lei che lo spinge a tener duro, insomma, a non farsi sopraffare dagli eventi e dalle brutte cose che gli stanno succedendo in quei giorni. Quindi una donna molto forte, una donna sicura del suo amore, convinta di fare la cosa giusta. Una donna che, appunto, come abbiamo detto, addirittura arriva fino all'estremo sacrificio. Ma Carnelutti, Andrea Tidona, dice a Benito Mussolini tutte le cose che lui ha sbagliato. Cioè bisogna ripercorrere la storia. Prima l'instaurazione della dittatura, il delitto Matteotti. Ricordiamo che la dittatura, il ventennio, inizia proprio col delitto Matteotti nel 1924. La promulgazione delle leggi razziali, e siamo al 1938. L'errore strategico dell'alleanza con la Germania, sempre il 38, è l'entrata in guerra nel 41, tanto per rintracciare un po' il ventennio, la storia del ventennio. Allora, qual è il momento che tu, come Benito Mussolini ovviamente, interpreti e che è sembrato per te più difficile da giustificare? Perché poi a un certo punto Benito Mussolini deve giustificarsi e deve giustificare agli spettatori perché ha fatto quelle scelte. Ah certo, beh, guarda, da uomo io personalmente trovo difficoltà in tutto, perché certamente non ci sia una figura più distante da me di Mussolini, nel senso che io sono uno un laico per eccellenza, quindi qualunque tipo di cosa legata ad credere, ubbidire e combattere, dogmi, situazioni e altro, praticamente non mi appartiene. Certo, ma non appartengono per fortuna più a nessuno, almeno. Non lo so. Speriamo, noi speriamo sempre in un'Italia migliore. Ma il momento che per te è più duro, quello lì della promulgazione delle leggi razziali? Ma sì, beh, certamente, lì siamo veramente all'aberrazione. Ma guarda che non è meno facile. Cioè, quando Carnelutti gli dice così com'è stato, quella frase che lui ha pronunciato a suo tempo, quando i generali gli dissero ma eccellenza, noi non siamo in grado di andare in guerra, non possiamo affrontare, e lui disse a me serve qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo, anche quello non è che ci sia da scherzare, da ridere davanti a un'affermazione del genere, anche lì è difficilissimo, è uno che teorizza la violenza come facente parte della lotta politica, che dice che praticamente il paese era talmente allo sfascio che era giustificata la violenza, che si può difendere anche, cioè, non c'è niente da difendere sinceramente, dal mio punto di vista, quando sono lì, è solo che faccio l'attore, e un attore ama la scommessa, ama il rischio, e si butta in un'avventura del genere, e sapendo che deve amare il personaggio, perché se tu non ami il personaggio che porti in scena, Non cavi niente da quella cosa lì, ma la ami come attore, per la sfida che ti pone, per il gusto di interpretare umanamente. Io proprio non riesco a... E voi con questo spettacolo inchiodate il Duce alle sue responsabilità. Eh beh, assolutamente, assolutamente. Lui, come dire, porta le sue ragioni, ripeto appunto, e comunque diciamo che poi la cosa che in qualche modo mi aiuta è che sul finale lui ammette che comunque, insomma, il passo della guerra non lo rifarebbe più, e dice, insomma, se avessi tempo griderei 10, 100, 1000 volte mai più guerre. Lo sapevo che qui non ci sarebbe stato, non sarei riuscito a difendermi da questa accusa più di tanto, cioè alla fine, insomma, cala le carte, si arrende in un certo senso da questo punto di vista. Ma noi poi ricordiamo anche i filmati quando lo liberano i nazisti a Campo Imperatore, che lui era già molto segnato e poi va a fondare la Repubblica di Salò. Allora abbiamo una donna come quella, come Claretta Petacci, che malgrado un uomo sia andato al potere con un omicidio, abbia promulgato le leggi razziali e abbia fatto un accordo con un pazzo dittatore sanguinario come Hitler, lo ama lo stesso. Irma, com'è possibile, quando tu l'hai interpretata, hai scoperto qualcosa di questa figura storica? Io innanzitutto credo che come persona, come Irma da 10, potrei dirti che è tutto sbagliato, e questo è un dato di fatto, va bene, è lo stesso discorso che ti facevo Andrea poco fa. L'unica cosa è che io credo che ciascuno di noi abbia talmente tante ombre che non può nascondere né a se stesso né agli altri, e sicuramente per mettere fuori insomma un po' di questi personaggi, insomma il buio di questi personaggi, forse andrebbero toccate le nostre ombre, cosa che noi per fortuna come attori facciamo spesso. Io in Claretta ho sicuramente visto, notato e messo in evidenza l'esasperazione di questo amore portato all'ennesima potenza, perché lei è veramente esaltata da quest'uomo, innamorata come di più non si può. Quindi io credo che questa cosa, come ho già detto, sia anche molto legata agli anni in cui lei è vissuta. Sicuramente non era allora immaginabile una donna come quella adesso, una donna che si oppone, una donna che pensa in maniera diversa da quella del proprio uomo, del suo uomo, dell'uomo che ha scelto o da cui è stata scelta. È anche una vena di pazzia, diciamolo, è anche una vena di pazzia, perché insomma ci vuole sì tanto amore, ma anche forse un amore ossessivo che non è poi così, che non rientra poi così nella normalità, come non è rientrata mai la storia di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Ricordiamo, al Teatro Golden fino al 6 gennaio, Andrea Tidona, Massimo Venturiello, Irma Ciaramella e Franco Silvestri sulla scena per L'Avvocato del Duce, uno spettacolo che ripercorre le ultime tappe e soprattutto un duce che deve difendere se stesso dopo il 25 luglio 1943. Cartellone. Dal 24 ottobre Loretta Goggi è in scena con il suo nuovo spettacolo intitolato Spa solo per amore, un one woman show ideato e creato su misura per Loretta da Gianni Brezza, che firma la regia dello spettacolo, un binomio vincente non solo nella vita. E lo spettacolo sta toccando diverse città italiane fino a marzo e addirittura in aprile sbarcherà in Canada. Musica, teatro e tanto divertimento per Spa solo amore, prodotto da Prima Show, spettacolo originale che spazierà dall'omaggio ai grandi cantautori della canzone italiana ad esilaranti momenti di comicità e dialogo con il pubblico di una grandissima performance di Loretta Goggi. Allora, sappiamo che ci sono tantissime date, però li vogliamo ricordare, quelle lì principali di questo mese, e avremo Loretta Goggi a Milano dal primo, cioè da ieri, fino al 6 gennaio, poi ad Ascoli il 9 gennaio, a Piacenza il 14, eccetera, eccetera, eccetera. Ad accompagnare Loretta Goggi ci sarà un'orchestra di 12 musicisti e un corpo di ballo di 11 ballerini. La nostra Adriana Fracchia ha intervistato Loretta Goggi. Ancora molto attiva e sulle tavole del palcoscenico. Sicuramente, ma è anche più gratificante. Tanto gratificante, vista la televisione di oggi, no? Ecco appunto, parliamo proprio di questo. La scelta di ricominciare facendosi conoscere anche dal pubblico più giovane attraverso appunto la polvere e i profumi del palcoscenico. Sì, è stata una bellissima scoperta quella del pubblico teatrale. Un po' sono contenta perché vuol dire che ho seminato bene, perché naturalmente inizialmente il mio pubblico era quello televisivo, attirato in teatro dal mio nome. Poi, facendo tante tournée accanto a dei grandi come Gigi Proietti, come Johnny Dorelli, eccetera, naturalmente il mio pubblico si è allargato ed è diventato il pubblico dei teatri. Poi a questo pubblico si sono uniti i giovani, perché oggi io faccio uno spettacolo alla Fiorello, diciamo, anche se sono un po' più grandina di lui, e quindi anche i giovani sono attirati da questo tipo di, come dire, di dialogo che si viene a creare fra me e la platea, che è proprio reale, sincero, spontaneo, oltre naturalmente a un'ossatura che Gianni Brezza ha costruito su di me e per me, e l'orchestra, ballerini, insomma, tutto quello che ci vuole perché uno spettacolo sia poi alla portata di un pubblico eterogeneo, insomma. Ecco, Spa solo per amore, come nasce la scelta di questo titolo? Poi è Spa come luogo per il fitness, la bellezza o SPA? È quello che spiego un po' durante tutto lo spettacolo, perché l'interpretazione naturalmente può essere sia Spa come centro benessere, ma visti i risultati, in scena ci sono io, non credo che funzioni molto bene, basta guardare me per capire che non può essere un centro benessere. Poi ci sono varie ipotesi, la più cattiva l'ha trovata mio marito dicendo solo per anziani. In realtà questo solo per amore sta per una dichiarazione d'amore al mondo dello spettacolo, dentro il quale io sono cresciuta, mi sono ritrovata per caso, e nel quale ho incontrato grandissimi artisti, sia di teatro, di cinema, che della musica leggera. È un omaggio ai grandi artisti anche del teatro di rivista, Renato Russell, a Walter Chiari, ai fratelli De Regge, a Domenico Modugno, a Lucio Battisti, agli anni 40-50, al Trio Lescano, al Duo Fasano. Ecco, è veramente una dichiarazione d'amore per questo lavoro, questo mestiere, io lo chiamo così, che mi ha dato tantissimo e che vorrei riversare sul pubblico presente in sala. Cosa le manca di quel mondo di allora e cosa invece trova che ci sia di bello oggi rispetto al passato? Beh, del mondo di allora, naturalmente io, sembra strano, ma ripropongo delle cose che non ho visto neanche io, nel senso che le ho riviste dai filmati, perché non ero nata neanche io ai tempi dei De Regge o di Renato Russell quando faceva il corazziere. Quindi mi mancano questi grandi artisti, perché si capisce che dietro il loro talento c'era una preparazione che non era quella di un reality. E per quanto riguarda la televisione di oggi, mi manca il bellissimo rapporto che riescono a creare i conduttori oggi con la platea televisiva. Noi eravamo i bravi presentatori, tra virgolette, dovevamo rispettare un copione, un'impostazione registica. Oggi riesci ad essere molto più te stesso, televisivamente parlando, certo. Se essere te stesso è unito al talento, è meglio. Ecco, ma lei trova che comunque ci siano ancora dei talenti come un tempo che erano piuttosto numerosi, diciamo? Oggi sembra esserci un po' più di scarsità nel panorama generale. O lei non è d'accordo? No, io credo che c'è molto, molto mercato, non so come dire. Ci sono tante televisioni, ci sono tanti tipi di teatro, ci sono tanti tipi di cinema. Emergere una volta era più facile perché tu avevi, non so, un canale o due televisivo, avevi il cinema, che allora, dopo De Sica, insomma, è stata la commedia all'italiana. Abbiamo avuto un grande cinema noi, negli anni 60, negli anni 70, Pasolini. Insomma, quando il cinema comincia ad allargarsi a platee eterogenee, quando la televisione vuole essere generalista, eccetera, i talenti si disperdono, perché cercano di arraffare e di avere tutto e subito e non hanno la possibilità di scegliere una strada e di lavorare work in progress, come dire, passo passo, facendo la gavetta. Un'altra cosa le chiedo, questo spettacolo, Spa solo per amore, torniamo appunto allo spettacolo che lei sta mettendo in scena ora, che sta rappresentando in questi giorni, è una lunghissima tournée che toccherà tante città italiane e che ha già comunque toccato altre città prima d'ora, quindi insomma una tournée che prosegue insieme a 12 musicisti e un corpo di ballo di 11 ballerini con la regia di Gianni Brezza, che è appunto suo marito, che ricordiamo in passato essere stato anche un grande ballerino. Quindi insomma è una compagnia abbastanza numerosa. È una compagnia numerosissima e lo sforzo, devo dire, economico fatto dalla produzione è notevole. In un momento di crisi noi cerchiamo di andare incontro al pubblico e noi stessi abbiamo scelto un tipo di contratto che consenta, come dire, un'agevolazione rispetto a quello classico teatrale, per costare di meno ma poter andare incontro alla gente che in questo periodo ha veramente bisogno di distrarsi, veramente bisogno di passare due ore senza le brutte notizie che servono e che bisogna avere, bisogna sapere, ma non ci dobbiamo cadere dentro e non risalire, no? Bisogna cercare di reagire anche. Facendo questo mestiere, continuo a chiamarlo così, giriamo l'Italia e ci accorgiamo delle realtà e delle problematiche di tutte le categorie dei lavoratori, di tutti quelli che fanno sacrifici per cercare di risparmiare sulla paga, per mandare qualcosa a casa e non spenderli in tournée, perché con i prezzi che ci sono è tutto triplicato, per cui lo sappiamo bene, ci siamo diciamo autotassati, va? Ecco, questo spettacolo costruito diciamo sullo stile della One Woman Show, usando un termine inglese. Esattamente, e parlo un po' di tutte le cose che si possono fare per amore. C'è anche un monologo, direi, serio, tra virgolette, dedicato a una donna che ha perso la testa per amore e quindi crede che gli abbiano rubato tutte le parole, aspetta da 10 anni il suo fidanzato alla stazione e non sa cosa dirgli perché qualcuno alla stazione gli ha rubato le parole, per cui chiama la polizia, chiama tutti e chiede aiuto perché gli è rimasto un ma, un con, un tra. Insomma, ecco, c'è anche questo. Poi, non so, c'è una cosa abbastanza comica sulla mia mania di andare al supermercato e degli scontri che ci sono con mio marito per questo. Poi, non so, parlo del fatto che secondo me l'uomo ha sempre temuto la donna ed è per questo che ci ha tenuto in disparte per tanto tempo, perché la donna è molto più forte dell'uomo e ci ha colpevolizzato per secoli, per ere, e quindi c'è anche una cosa sempre divertente. Poi ci sono episodi proprio di vita vissuta miei, di incontri fatti, racconti di Sanremo, racconti legati ai personaggi che ho incontrato, anche non celebri, nella mia vita e che servono a dare uno spaccato di quello che è l'Italia legata al mondo dello spettacolo. E parlando degli assenti, nel senso di non più presenti tra di noi, tra i grandi personaggi dello spettacolo che lei ha incontrato nella sua lunga carriera, chi le manca di più, volendo così fare un ricordo? È molto difficile, dovrei dire un po' tanti nomi. Principalmente mi mancano Gino Cervi, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Sergio Tofano, Tino Carraro, Alighiero Noschese, Corrado, Delia Scala, Lucio Battisti, Domenico Modugno, ce ne sono tanti, tutte persone che ho incontrato e dai quali ho rubato, ecco, sono stata una bella ladruncola. E invece di quelli ancora viventi, c'è qualcuno che lei cita o che per i quali nutre grande simpatia? Beh sì, certo, ce ne sono tantissimi, uno è sicuramente Fiorello, perché mi piace anche il suo talento, ecco, non lo conosco profondamente, ma il suo talento è tangibile, penso, non c'è bisogno che lo dica io. Mi piace molto Paola Cortellesi perché credo che stia seguendo una strada simile alla mia e credo che si ritroverà un grande patrimonio quando avrà la mia età. No, ci sono tante persone che stimo. Direi questi due perché sono vicini al mio modo di intendere la parola artista. Lei è tante cose insieme, grande cantante, grande attrice, imitatrice, bravissima. Ecco, di tutte queste cose c'è qualcosa che preferisce in particolare o le piace essere tutte queste cose insieme? Io ho faticato tantissimo sia per imparare a fare tutte queste cose, qualcuna neanche tanto bene, io la ringrazio per tutti questi, per questo aggettivo grande che ha messo davanti ad ogni professione. Ho faticato tanto, non solo io, ad imparare, ma anche a convincere i media italiani che non erano abituati a personaggi di questo tipo. Per cui quando ho iniziato, io ho iniziato facendo l'attrice, poi facendo le imitazioni, poi dopo mi hanno detto chi fa le imitazioni non ha una sua personalità, non ha una sua faccia, non ha una sua voce. Poi ho smesso di fare le imitazioni e ho fatto il quiz. Dicevano che le donne non erano capaci di condurre un quiz, di condurre Sanremo, perché se succedeva qualcosa non sarebbero state all'altezza, invece ho fatto anche quello. Ho fatto tanta fatica, per cui adesso privarmi di una di queste frecce, tanto per rimanere nell'ambito della freccia nera, mi sembrerebbe come camminare senza un braccio, ecco. Visto che l'abbiamo citata, di quel periodo della freccia nera che sono stati proprio i suoi esordi, che cosa ricorda? Guardi, è un ricordo bellissimo. No, il primo non tanto, perché io ero piattissima, perché io ho fatto tanta televisione anche prima, I Miserabili, Demetrio Pianelli, Delizia e Castigo, insomma, la televisione l'ho fatta proprio da bambina. Quello è stato il mio primo ruolo da signorina, ma ero piattissima. E mentre questo nel privato era un problema, perché insomma, ai tempi un po' più di seno, un po' più di sedere mi sarebbero piaciuti, io sono stata scelta perché ero piatta, perché dovevo sembrare un maschietto. E devo dire la verità, non mi sono mai divertita tanto in vita mia perché ero l'unica donna di questo cast, ce n'erano anche altre 2 o 3, ma insomma io ho vissuto in mezzo a tutti gli stuntmen, ai famosi cavallari, tra virgolette, che mi hanno insegnato a tirare di scherma, Musumeci Greco, e ad andare a cavallo senza staffa, senza sella, insomma è stato un periodo meraviglioso, meraviglioso. Da maschiaccio proprio. Ma anche lei subì il fascino come tutte noi adolescenti dell'epoca di Aldo Reggiani? No, però siamo rimasti sempre molto amici. Aldo è una persona molto gioviale, era secondo me all'epoca più grande di me, quindi più maturo, e quindi io cercavo il ragazzino 17enne che mi potesse stare vicino. Aldo era più grande, e poi forse avevo un flirt all'epoca, non mi ricordo, però siamo molto amici. E molte mie amiche mi hanno invidiato questa amicizia. Vedi quanto le cose possono andare diversamente? Tante date ancora a Milano? Sì, vedo noi addirittura, facciamo a Milano il periodo dell'ultimo dell'anno fino all'Epifania. Poi molte date a Palermo, addirittura 12 giorni, a Napoli 9 giorni, e poi a Firenze, a Colle Valdelsa, a La Spezia, a Brescia. Oddio, mi mancano a Lecce, a Bari, a Catania, a Messina, cioè tantissimo, fino ad arrivare in Canada. Fino ad aprile il carrozzone va avanti. Roma quest'anno non la tocchiamo, ma naturalmente questo tour prevede un'altra stagione, se sopravvivo, lo dico sempre perché è molto faticoso, e la toccheremo il secondo anno, come di solito si fa sempre, a meno che gli spettacoli non siano, insomma, del Sistina, dove debuttano, perché hanno una casa dove possono debuttare. Noi dobbiamo tornare con il secondo anno, ecco. Mi permette di ringraziare tutta la compagnia, io approfitto perché lo faccio sempre, tutte le sere, perché sa, all'apice della piramide si vede sempre una persona, ma questo spettacolo è il frutto di tanta gente, siamo proprio tanti, e quindi tecnici, sarte, luci, audio, direttori di scena, ballerini, Stefano Bontempi che è il coreografo che balla, canta e recita, Erika Pumpu, insomma, grazie a tutti, vi voglio bene, e a tutti gli ascoltatori felicità. Grazie Loretta Goggi, anche a lei tantissimo, in bocca al lupo per la sua tournée. Grazie molte. Cartellone. Grande Michael Jackson quando cantava Don't stop till you get enough, non ti fermare finché non ne hai abbastanza, ma noi non potremo mai averne abbastanza del grande Giaco, e soprattutto non ne possono avere abbastanza i londinesi o chi si reca a Londra per queste vacanze di Natale, perché una grandissima mostra all'Ottualina proprio narra la vita di questa grandissima pop star recentemente scomparsa. E la nostra Michela Daghini, in collegamento da Londra, è andata a curiosare tra la mostra. Michela, com'è? Dunque, molto bella, direi, è impressionante, molto, molto suggestiva, è da vedere. Come dicevi tu, la mostra ufficiale si tiene all'O2 Bubble, in questa grande struttura dell'Ottualina, dove avrebbero dovuto tenersi i famosi 50 attesissimi concerti. L'idea è quella di illustrare attraverso oggetti e film il suo lascito musicale, considerato il più profondo e il più importante anche della storia del XXI secolo. Tra l'altro, per raggiungere l'Ottualina si può andare naturalmente con la metropolitana, ma vi suggerisco di andarci in barca sul Tamigi con Thames Clipper, queste barche molto spaziose con grandi vetrate dalle quali si può vedere la città vista dal fiume, ed è davvero magico, ci si arriva in una quarantina di minuti dal centro. Dunque, in mostra ci sono costumi di scena, video, fotografie, materiale dai suoi archivi privati, ci sono contratti, gioielli, ci sono premi, dipinti che arredavano la sua casa, c'è un pianoforte d'epoca, ci sono naturalmente i famosissimi guanti di tutti i colori, e la mostra parte dal successo dei Jackson 5 fino alla fine, fino al concerto, allo show che aveva pianificato allo Tua Arena. Sono 9 gallerie tematiche, 9 sezioni su vari momenti della sua vita. Aspetta un attimo, hai detto Jackson 5? Beh, allora... Michela, ti abbiamo fatto una piccola sorpresa. E poi abbiamo... L'emozione però è davvero intramontabile questo brano. Ti ricordi, lui era il più giovane poi, è quello che ha avuto più successo di tutti i fratelli. Aveva 10 anni, era piccolissimo ed è davvero emozionante anche vederlo in questi video dove appunto compaiono con questo look afro, con questa chioma gigantesca e queste camicie coloratissime, i pantaloni a zampa, e lui era già allora davvero un talento, un bambino prodigio. Dicevo, ci sono i Jackson 5, c'è un contratto originale, ci sono i costumi, le foto, poi inizia la sua carriera da solista. E qui ci sono i premi, le onorificenze, c'è un grande pannello con i 24 dischi di platino per Thriller, che sappiamo resta nella storia della musica, con un record di 65 milioni di copie vendute, che è davvero incredibile, e 500.000 all'anno ancora oggi, perché rimane di culto e c'è chi continua a comprarlo. C'è un testo originale di Bev scritto di getto a mano con la calligrafia di Michael, che si vede proprio al momento in cui l'ha creato, gli sono venute le parole e l'ha buttato giù. Poi tra le cose più spettacolari c'è la sua Rolls Royce personale blu d'epoca, che è stata messa davanti all'ingresso della sua Neverland, hanno ricostruito l'ingresso del suo ranch in California, di questo luogo di giochi e sogni dove lui viveva. E qui inizia forse la parte più bella della mostra, perché l'impressione è un po' quella di entrare nella sua casa. Ci sono alcuni pezzi di arredamento, ci sono oggetti delle sue collezioni, lui ad esempio era affascinato da tutto ciò che era legato al mondo regale e collezionava copie di splendidi gioielli preziose, corone addirittura, c'è un grandissimo trono di velluto rosso incorniciato da putti d'oro che cantano e suonano, c'è uno scettro, poi lui collezionava oggetti preziosi da fatti di pietre dure, di bracciali luccicanti, di pietre insomma luminosissimi. Poi nella stessa sala ci sono dei quadri, ci sono dei dipinti che lo rappresentano come un cavaliere vestito da cavaliere, ci sono abiti che gli stilisti hanno realizzato per lui, e poi lui aveva questa passione per le uniformi, le collezionava, così come collezionava cappelli di tutti i tipi, da vigile, da pompiere eccetera, da ogni parte del mondo, e anche questa parte è molto impressionante. E poi c'è anche l'impegno umanitario. Ecco, ma un attimo, prima di andare all'impegno umanitario, tu mi accennavi fuori onda che era anche importante il legame che aveva col Regno Unito, a parte le corone, a parte le uniformi, giusto? È vero, è verissimo, infatti lui qui è molto vivo ancora adesso, in ogni negozio, in ogni luogo in cui vai c'è la sua musica. Quando era morto è stato ricordato in ogni angolo della città, con fiori, fotografie, altarini creati qua e là per gli angoli di Londra. E lui era molto legato sia al Regno Unito e anche sostenuto molto intensamente con soldi e con cause umanitarie portate avanti da lui, diverse fondazioni benefiche. Ed era sì molto legato a questa città, ed è anche per questo che evidentemente aveva deciso di ricominciare, di tornare sulle scene partendo con queste 50 date londinesi allo Tua Arena, come tu dicevi. Un impegno umanitario di cui si sa pochissimo, perché noi abbiamo sempre nella nostra mente l'idea di un Michael Jackson molto spendaccione, addirittura che poi ha finito di collezionare debiti su debiti, Michela. Hai ragione, se ne parla poco, e invece è incredibile perché il suo impegno umanitario lo vede nel Guinness Book of World Records in qualità di persona che ha sostenuto il maggior numero di enti benefici nella storia, cioè il suo impegno umanitario, soprattutto a favore dei bambini, è stato il più generoso e imponente della storia. Ha sostenuto 39 organizzazioni non profit, sia attraverso donazioni dirette ma anche attraverso la sponsorizzazione dei progetti, ha devoluto spesso l'incasso dei concerti oppure dei beni che aveva messo all'asta, sono stati spesso dati in beneficenza, e poi si occupava personalmente di molti progetti, li seguiva da vicino, visitava i bambini disagiati, portava i giocattoli, le medicine. Ha ricevuto moltissime onorificenze per questo impegno profuso, e nella mostra se ne vedono diversi, lo si vede anche con Lady Diana, perché aveva sostenuto molte cause benefiche anche di Lady Diana, quindi lo si vede premiato da lei che gli dà un riconoscimento. E lui anche quando, tra l'altro, ho saputo, io non lo sapevo, quando è venuto in Italia, era andato al Bambin Gesù di Roma, aveva donato dischi, dolci, autografi ai pazienti e 100.000 pounds all'ospedale, e chi era lì raccontava di averlo visto piangere per i bambini malati, naturalmente mai davanti a loro, ma passava il tempo a giocare, li accarezzava, gli ha regalato giochi di tutti i tipi, e lui insomma era legatissimo al mondo dei bambini e li ha sostenuti in modo davvero imponente, ma in modo anche abbastanza segreto e discreto, perché appunto lui andava segretamente a trovare i bambini negli ospedali, e quindi è stato riconosciuto. C'è anche una lettera di Reagan che lo ringrazia per tutto ciò che ha fatto per l'America, insomma un impegno sotto tutti i fronti contro la violenza. E poi le accuse, tanto per chiudere, la vicenda giudiziaria, che è stato assolto perché questo bambino accusatore di molestia ha detto che non è mai stato molestato poi da Michael Jackson. Sì, è davvero l'ironia della vita, perché appena dopo la morte di Michael Jackson, questo Jordan Chandler, che ormai ha 29 anni, ha detto: "Dio, Dio, non potrò mai chiedergli scusa, io sono stato costretto a mentire, forzato da mio padre che voleva uscire dalla povertà, e lui in realtà, Michael Jackson, non mi ha mai toccato, non mi ha mai fatto nulla, io non perdonerò mai mio padre". E il padre si è suicidato un mese fa in questa lussuosissima villa dove era andato a vivere. E che storia assurda, perché comunque è stata la pagina sicuramente più dolorosa e tragica di questa pop star. Allora Michela, abbiamo scoperto tutti quanti i segreti di questa mostra, non avevamo dubbi con te. Ricordiamo l'attualina di Londra, per noi Michela Daghini è andata a curiosare nella mostra di Michael Jackson. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Un saluto, un buon anno a tutti da Elisabetta Fiorito e dalla redazione di Cartellone e da Michela Daghini da Londra.